Il terzo anello, ad alta voce. La montagna incantata di Thomas Mann. La ruota girò. Le lancette progredirono. Hans Castorp era in rapporti più amichevoli con due soli commensali. L'uno era H. Ferge, di Pietroburgo, il suo vicino di sinistra, il paziente bonario che di sotto il cespuglio dei baffi rosso-bruni veniva discorrendo della produzione di scarpe di gomma e di regioni lontane come il circolo polare e il perpetuo inverno del Capo Nord. Con lui Castorp faceva perfino talvolta la passeggiata d'obbligo. L'altro, che ogni qualvolta si presentava l'occasione, si aggregava a loro due e stava all'altro capo della tavola di rimpetto al gobbo messicano, era il mannaimese, quello dai capelli radi e dai denti guasti, di nome Vesal, Ferdinand Vesal, commerciante di professione, i cui sguardi avevano seguito sempre con torbido desiderio la graziosa persona della Chauchat. Ora, dopo il carnevale, cercava di stringere amicizia con Castorp. Hans Castorp, inoltre, aveva ricevuto sempre brevi notizie di suo cugino, prima buone, baldanzose, poi meno favorevoli, infine tali da mascherare fiaccamente qualcosa di assai triste. A Capodanno Joachim fu promosso sottufficiale e mandò una sua fotografia con relativi galloni, e ai primi di aprile era sottotenente. All'occasione dava notizie della vita di società, di pranzi, di balli, della sua salute, mai. Mai fin verso l'estate. Allora scrisse che s'era messo a letto, che purtroppo aveva dovuto marcar visita. Una febbre catarrale, questione di qualche giorno. Al principio di giugno era di nuovo in servizio, ma alla metà del mese aveva fatto cilecca un'altra volta. Si lagnò amaramente della sua iella e fece trapelare la paura di non poter partecipare, ai primi d'agosto, alle grandi manovre che aspettava con ansia e gioia. Storie. In luglio stava benissimo, per settimane, fin tanto che all'orizzonte si delineò una visita medica, resasi necessaria in seguito alle maledette oscillazioni della sua temperatura, e molto sarebbe dipeso da quella visita. Dell'esito di essa Castorp non seppe nulla per molto tempo, e quando lo seppe non gliene scrisse Joachim, sia che non fosse in grado di farlo, sia che se ne vergognasse, bensì sua madre, la signora Zimse, mediante un telegramma. Comunicava che il medico aveva dichiarato indispensabile per Joachim una licenza di qualche settimana. Indicata alta montagna, consigliato partire subito, prenotare per favore due camere, risposta pagata. Firma zia Louise. Era la fine di luglio quando Castorp sul suo balcone scorse questo dispaccio che poi lesse e rilesse. Annuì piano piano, non solo con la testa, ma con tutto il busto, mentre diceva fra i denti: già, già, già, guarda, guarda, guarda, Joachim ritorna. Castorp espose a Behrens la sua triste e d'altro canto bellissima novità. Non che il consigliere ne fosse sorpreso, non lo sarebbe stato in nessun caso, ma non lo fu in particolare, perché Castorp, interrogato o no, lo aveva sempre tenuto al corrente della salute di Joachim, e fin dal maggio gli aveva segnalato che si era messo a letto. «Vedo», fece Behrens. «Ci siamo. Che cosa le avevo detto? Che cosa dissi a lui e a lei? Non 10 ma 100 volte? Ecco, dunque. Per 9 mesi ha fatto come voleva lui e ha toccato il paradiso. Ma un paradiso non del tutto disintossicato non può finir bene. Il fuggiasco non ha voluto credere al vecchio Behrens. Ma al vecchio Behrens bisogna credere, sempre. Altrimenti ci si scapita. E troppo tardi si mette giudizio. Ce l'ha fatta a diventare tenente. D'accordo, non c'è che dire. Ma che gli giova? Dio vede nei cuori, non tiene conto del grado e della condizione. Davanti a lui siamo tutti nudi, generali e soldati semplici. E si mise a straparlare. Si fregò gli occhi con la manona che reggeva il sigaro e disse a Castorp che per questa volta gli levasse il disturbo. Un buco per Zimsen si sarebbe trovato. E appena arrivava, suo cugino doveva cacciarlo a letto, senza indugio. In quanto a lui, Behrens non ce l'aveva con nessuno. Allargava le braccia paterne ed era pronto a macellare un vitello per il figlio il prodigo. Così i due giovani vivevano di nuovo a fianco come una volta. Anzi, per ricostruire al completo il quadro di allora, gli toccò, quando Mrs. MacDonald, col ritratto del figlio in mano, ebbe esalato l'ultimo respiro, la sua solita camera, attigua a quella di Castorpe, dopo si intende una radical disinfezione con H2CO. A rigore, per quanto attiene al sentimento, dobbiamo dire che Joachim viveva al fianco di Castorpe e non viceversa. Questi era ora il residente, del quale l'altro condivideva la vita per un po' di tempo, per la durata di una visita. Joachim infatti si sforzava di tenere fermamente d'occhio il termine di ottobre, benché certi punti del suo sistema nervoso centrale non volessero adattarsi alla norma umanistica e impedissero la compensatrice emissione di calore attraverso la pelle. Ripresero anche le visite a Settembrini e Nafta, nonché le passeggiate con questi due alleati nemici. E quando vi partecipavano anche H. Ferge e Ferdinand Wesel, come accadeva spesso, erano in sei. E quei due avversari nello spirito combattevano i loro interminabili duelli. Nel riferirli non possiamo aspirare a darli integralmente, perché ci perderemmo su un piano disperato e senza limiti, come facevano loro ogni giorno davanti a un pubblico ragguardevole, anche se Castorpe era dell'idea che il principale argomento della loro gara dialettica fosse la sua povera anima. Da Nafta aveva appreso che Settembrini era frammassone, e ciò non lo aveva colpito meno della rivelazione dell'italiano circa la provenienza gesuitica di Nafta e la fonte del suo gesuitico sostentamento. Anche questa volta era rimasto sbalordito alla notizia che una cosa simile esistesse ancora, sul serio, e aveva assiduamente scandagliato il terrorista per conoscere le origini e la natura di quella curiosa istituzione, della quale tra qualche anno si sarebbe potuto festeggiare il bicentenario. Se Settembrini alle spalle di Nafta parlava del suo atteggiamento spirituale come di cosa diabolica dalla quale in tono patetico consigliava di guardarsi, Nafta alle spalle di quello aveva buon gioco a deridere il campo che rappresentava, facendo capire che era un campo molto antiquato e arretrato. Illuminismo borghese, libero pensiero di avanti ieri, nient'altro che meschina visione di fantasmi, dedita però alla ridicola illusione di essere ancora in piena vita rivoluzionaria. Diceva, che vuole, già, suo nonno era carbonaro, cioè carbonaio. Da lui ha preso la fede da carbonai nella ragione, nella libertà, nel progresso umano e tutto quel rancidume di ideologia classico-borghese della virtù. Vede, lo scompiglio del mondo dipende dalla sproporzione che c'è fra la velocità dello spirito e l'enorme lentezza, goffaggine, inerzia, fiacchezza della materia. Bisogna riconoscere che questa sproporzione sarebbe sufficiente a scusare il mancato interessamento dello spirito al reale, perché è normale che i fermenti, i quali provocano le rivoluzioni della realtà, gli sono venuti a nausea da un pezzo. Di fatto, lo spirito morto ripugna a quello vivo più di qualsiasi basalto, che almeno non ha la pretesa di essere spirito e vita. Siffatti basalti, residui di realtà di una volta che lo spirito si è lasciato alle spalle, al punto da rifiutare di collegarsi ancora al concetto reale, continuano a esistere per inerzia e con la loro pesante e morta durata impediscono purtroppo che l'insulsaggine si accorga di essere insulsa. Io parlo sulle generali, ma lei ne saprà fare l'applicazione pratica a quel liberalismo umanitario che crede di trovarsi ancora in posizione eroica contro il potere e l'autorità. Che dire, ahimè, delle catastrofi mediante le quali vorrebbe convincersi di essere vivo, dei ritardati e spettacolosi trionfi che sta preparando e sogna di celebrare in avvenire. Al solo pensiero di questi, lo spirito vivente si annoierebbe a morte se non sapesse che in realtà lui solo riporterà la vittoria e l'usufrutto di tali catastrofi. Lui che fonda in sé gli elementi del passato col più lontano avvenire per una vera rivoluzione. Thank you. aggiunse Nafta dopo una pausa, le consiglierei di non prendere troppo alla leggera quest'uomo e la sua causa. E già che stiamo parlando di questo argomento, la vorrei persino pregare di stare in guardia. In sulsaggine e innocenza non sono affatto la stessa cosa. Non è detto che chi è limitato sia innocuo. Costoro hanno annacquato parecchio il loro vino, che in certi momenti fu tutto fuoco, ma l'idea della loro associazione è ancora abbastanza forte da sopportare molta acqua. Essa conserva residui di misteri fecondi, e non c'è da dubitare che le logge abbiano lo zampino nelle vicende del mondo, come converrà scorgere in codesto amabile signor Settembrini qualcosa di più che lui stesso. E pensare che sia spalleggiato da poteri dei quali è un parente, un emissario. Un emissario? Sì, uno che va a caccia di proseliti, un pescatore di anime. E tu che emissario sei? Pensò Castorp. A voce alta disse: grazie, signor Nafta. Sinceramente obbligato dell'avvertimento. E ora sa cosa faccio? Salgo di un piano, se lassù si può parlare di piano, e vado a toccare il polso al fratello mascherato. E l'apprendista deve essere desideroso di sapere, e impavido. Anche cauto, si intende. Con gli emissari la prudenza non è mai troppa. Intanto, la febbre da infreddatura di Joachim era pura illusione. Da ciò che Behrens durante la visita mensile dettò all'assistente psicologo e dalle rivelazioni della lastra fotografica, apparve fin troppo chiaramente che, semmai, poteva trattarsi di una partenza arbitraria, mentre questa volta era necessario perseverare con ferrea disciplina fino a ottenere la definitiva resistenza alle intemperie per il servizio in pianura e l'osservanza del giuramento. Questa era la parola d'ordine sulla quale si asseriva tacitamente di essere tutti d'accordo. La verità invece era che l'uno, in fondo al cuore, non si sentiva affatto sicuro che l'altro fosse convinto di questa parola d'ordine, e se l'uno abbassava gli occhi davanti all'altro, lo faceva a causa di questo dubbio, e non lo faceva senza che prima gli sguardi si fossero incontrati. Avvenne in specie una volta a tavola, quando al rauco Joachim qualcosa andò improvvisamente di traverso ed egli non riuscì a riprendere fiato. Mentre dunque ansimava dietro al tovagliolo e la signora Magnus, sua vicina, secondo una vecchia usanza, gli dava dei colpetti sulla schiena, i loro occhi si incontrarono, in modo che Castorp rimase paurosamente scosso, più da quello sguardo che dall'infortunio stesso che può capitare a chiunque. Dopodiché Joachim chiuse gli occhi e col tovagliolo sul viso abbandonò la tavola e la sala per finir di tossire nel vestibolo. Ma fuori turno e a ora insolita fu invitato a recarsi da Radamanto. Il consigliere dunque speculò, riflesse, occhieggiò a lungo in fondo alla gola di Joachim. Dopodiché il paziente, per espresso desiderio di Castorp, andò a raggiungerlo sul balcone per riferire. Una faccenda molesta, un gran prurito, gli comunicò bisbigliando perché era l'ora della cura con l'obbligo del silenzio. E infine Behrens aveva blaterato di non so quale irritazione e decretato che si facessero pennellate quotidiane. Voleva cominciare a cauterizzare fin dall'indomani. Intanto avrebbe preparato il farmaco. Irritazione, dunque, e cauterizzazioni. Che cosa aveva l'ambizioso Joachim? Da qualche giorno i suoi sguardi erano incerti e timidi. Ancora poco tempo prima, un tentativo della superiora Milendonk di guardarlo negli occhi dolci e scuri era fallito. Ma se avesse tentato ora la buona sorte, chissà come sarebbe andata a finire. In ogni caso, egli evitava siffatti incontri, e seppur avvenivano, poiché Castorp lo guardava spesso e volentieri, non per questo si sentiva meglio. Castorp rimase nella sua loggia, depresso, e con la smania di andare subito a parlare col capo. Ma non era possibile, perché Joachim l'avrebbe udito alzarsi. Perciò era consigliabile rimanere e cercare di sorprendere Behrens nel pomeriggio. Lei, Hans Castorp, è affezionato a suo cugino? Domandò Behrens, prendendo la mano del giovane e guardandolo di sotto in su con gli occhi azzurri dalle ciglia bianche, gonfi e soffusi di sangue. Che vuole che le dica, signor consigliere, un parente così prossimo, un caro amico, il mio compagno di quassù? E con un breve singhiozzo sollevò un piede sulla punta e volse il calcagno al di fuori. Behrens si affrettò a lasciare andare quella mano. Beh, allora sia gentile con lui. Queste 6-8 settimane, disse. Si affidi al suo innato candore. Non potrà fargli cosa più gradita. Poi ci sono anch'io, appunto, per rendere la situazione possibilmente confortevole tra gentiluomini. La laringe, vero? Domandò Castorp scotendo la testa. Laringea, confermò l'altro. Disfacimento galoppante. Poche speranze, caro il mio giovanotto. O diciamo pure nessuna. Naturalmente tenteremo tutto quanto si può e si deve. Da quel giorno dunque Joachim adottò la linea orizzontale in continuazione. E Castorp scrisse a Louise Zimsen. Le scrisse dalla sua eccellente sedia a sdraio per aggiungere alle sue precedenti occasionali comunicazioni che Joachim si era dovuto mettere a letto e a lui non l'aveva confessato, ma gli si leggeva negli occhi il desiderio di aver vicino la sua mamma. Dopo l'arrivo di sua madre, Joachim però aveva subito notevoli mutamenti. Siccome gli riusciva faticoso radersi e già da 8-10 giorni aveva smesso di farlo, il pelo gli crebbe abbondante. Il suo viso cereo con gli occhi dolci gli si era incorniciato di una barba nera, una barba di guerra, come se la lasciano crescere i soldati al campo, che del resto, a giudizio di tutti, gli stava bene e gli conferiva un'aria virile. Ecco, a un tratto Joachim giovanotto era diventato un uomo maturo in virtù di quella barba, e non soltanto di essa. Visse velocemente, come un meccanismo d'orologeria che si srotoli. Percorse al galoppo le stagioni della vita che non gli era concesso di raggiungere nel tempo. E durante le ultime 24 ore toccò la vecchiezza. Poi divenne scostante, ostile a ogni contatto, persino scortese. Non accettava finzioni o tentativi di attenuare la gravità. Non reagiva ad essi. Guardava imbronciato davanti a sé, specialmente dopo che il giovane parroco, chiamato dalla signora Zimsen, ebbe pregato insieme con lei. Il suo contegno assunse un'impronta di servizio ufficiale e i suoi desideri erano espressi soltanto sotto forma di ordini, brevi e secchi. Alle 6 del pomeriggio Joachim cominciò uno strano armeggio. Passò ripetute volte sulla coperta nei pressi dell'anca, con la destra, che recava intorno al polso il suo bracciale d'oro a catenella. La sollevò un poco nel ritorno e la riportò verso di sé raschiando, rastrellando la coperta, come per adunare o raccogliere qualcosa. Alle 7 spirò. Presenti erano soltanto la mamma e il cugino. Joachim era affondato nel letto e ordinò brevemente che lo sollevassero. Mentre sua madre, cingendogli le spalle con le braccia, eseguiva l'ordine, disse con una certa fretta che doveva compilare e inoltrare subito una supplica perché gli fosse prolungata la licenza. E mentre lo diceva, avvenne il veloce trapasso, osservato religiosamente da Castorp, alla luce della lampadina rivestita di rosso. L'occhio si spense, l'inconscio sforzo dei lineamenti si distese, la faticosa enfiagione delle labbra dileguò visibilmente. La bellezza di una gioventù precocemente virile si distese sul viso ammutolito del nostro Joachim e fu finita. Thank you.